Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti e per questo piovosissimo lunedì 11 novembre, notizie tragiche che arrivano dall'internazionale, da Kirkuk in Iraq, attacco alle forze speciali italiane, feriti 5 soldati, di cui 2 gravi. Di questo sicuramente parleremo coi giornali, ma subito Radio Bullet e buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nell'appuntamento del notiziario in genere di Radio Bullets a cura di Lena Maggiaro, e al microfono ci sono io, Barbara Schiavulli. Questi i titoli di oggi. La tecnologia ci sta portando nuove forme di violenza contro le donne. I governi e le aziende devono prenderne atto e agire di conseguenza. Proteste in Libano e attivismo. Cina, violenze contro la popolazione kazaka. A pagare sono soprattutto le donne. E infine, in aumento il numero delle ragazze ivoriane, potenziali vittime di tratta sulla rotta del Mediterraneo centrale. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Internet sta portando nuove forme di violenza contro le donne ed è tempo di parlarne. E quanto emerge da un'analisi di Human Rights Watch, Kate Hill, componente del Congresso degli Stati Uniti, eletta alla Camera dei Rappresentanti meno di un anno fa, si è dimessa fino a ottobre, giorni dopo che le sue foto di nudo, che sostiene siano state diffuse senza il suo consenso, sono state pubblicate online dai media. Hill, 32 anni, è anche accusata di aver violato le regole della Camera intrattenendo una relazione sessuale con una persona del suo staff. Lei nega questa accusa, ma si è comunque dimessa citando le foto private di momenti personali che erano state usate come un'arma contro di lei e aggiungendo che era spaventata da ciò che potrebbe succedere dopo. Molte persone, il 90% delle quali donne e ragazze, hanno vissuto online una qualche forma di violenza sessuale, incluso ciò che Hill dice. Le foto compromettenti sono state usate contro le persone da quando esistono le macchine fotografiche, ricorda Human Rights Watch, ma i media online, dove tutto è a portata di screenshot, presentano opportunità di abuso che non sono mai esistite prima. Gli autori degli abusi sono stati veloci nel cogliere le opportunità di questi nuovi mezzi: umiliare, distruggere carriere, reputazione e relazioni e persino portare le vittime al suicidio, scatenare la cosiddetta violenza d'onore nelle società in cui il sesso al di fuori del matrimonio è considerato vergognoso. Hanno trovato opportunità per monetizzare i loro abusi in Corea del Sud, dove Human Rights Watch sta attualmente approfondendo il problema. Le piattaforme fanno pagare agli spettatori la visione di filmati spy cam di donne e ragazze girati inconsapevolmente nei bagni e negli spogliatoi. E una volta che l'immagine è stata pubblicata, una volta il danno è permanente. Anche se l'originale viene rimosso, schermate, altre copie possono riapparire in qualsiasi momento. Le società internet non riescono a comprendere l'impatto e l'urgenza di questi casi. Troppo spesso non riescono a rimuovere le immagini non consensuali, hanno procedure lente e complesse per tali richieste e non riescono ad agire abbastanza rapidamente quando le immagini riappaiono. Peggio ancora è la risposta dei governi, scrive ancora Human Rights Watch. In molti paesi le leggi non vengono aggiornate e la condivisione non consensuale di immagini intime potrebbe non essere nemmeno illegale. Laddove si tratta di un crimine, la polizia spesso non ha la dovuta esperienza né gli strumenti e la sensibilità per indagare e sostenere le vittime. Bless that African woman, rich skin tone my woman. True African proud woman, rise up African woman, definition of a partner, grind so hard she a hustler. arrivano in Italia e partono soprattutto dalla Tunisia. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha pubblicato un rapporto sul nuovo fenomeno di sfruttamento recentemente emerso a seguito delle analisi dei flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Nel corso dell'ultimo anno, l'OIM, presente nei principali punti di sbarco italiani con diversi team antitratta, ha rilevato un aumento delle presenze di ragazze provenienti dalla Costa d'Avorio. Abbiamo ragione di credere che molte di queste ragazze siano purtroppo vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e a violenza anche sessuale, spiega Lauren Hart, direttore dell'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell'OIM. I numeri relativi agli arrivi via mare dei migranti provenienti dalla Costa d'Avorio, si legge nella nota, rivelano come una riduzione del numero complessivo di migranti di nazionalità ivoriana in ingresso in Italia negli ultimi anni corrisponda al progressivo aumento della percentuale di donne coinvolte dall'8% sul totale dei migranti di questa nazionalità sbarcati nel 2015 al 46% del 2019. Nella maggioranza dei casi il paese di partenza è la Tunisia e dai colloqui che abbiamo avuto con queste giovani ragazze pare evidente che ci troviamo di fronte a quello che può essere definito un fenomeno di re-trafficking, continua Hart. Molte reclutate nel loro paese per lavorare come domestiche o cameriere diventano invece vittime di servitù domestica una volta arrivate in Tunisia o in Libia, dove sono sottoposte a maltrattamenti, violenze e privazione di libertà personale, nonché costrette a subire abusi sessuali da parte dei loro sfruttatori. A questa fase ne segue un'altra che prevede un ulteriore sfruttamento in Europa, organizzato da persone che si dicono disposte a farsi carico dell'organizzazione dei costi della traversata del Mediterraneo, ma che poi hanno intenzione di sfruttare le vittime una volta giunte in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea. Dopo lo sbarco in Italia, alcune di queste vittime, consapevoli di poter incorrere in una rinnovata condizione di sfruttamento, hanno deciso di chiedere aiuto all'OIM, si legge nella nota. La scoperta di questo circuito di sfruttamento, sottolinea il direttore, dimostra ancora una volta come dietro i numeri degli sbarchi ci siano storie molto drammatiche di cui spesso si sa troppo poco. Non possiamo fare a meno di pensare alle ragazze ivoriane morte lo scorso 7 ottobre nel corso del naufragio avvenuto al largo di Lampedusa, una tragedia che ci riporta alla memoria dell'altro drammatico incidente del 2017 che causò la morte di 26 ragazze nigeriane, anche loro probabili vittime della tratta. Occorre fare di più per proteggere questi gruppi vulnerabili che non solo subiscono una lunga serie di abusi e violazioni dei diritti umani, ma poi si trovano costrette a rischiare di morire in mare. Come OIM ribadiamo la nostra volontà a continuare a impegnarci nella lotta della tratta di esseri umani, promuovendo attività di identificazione e di protezione delle vittime, rafforzando l'esistente stretta collaborazione con procure, forze dell'ordine, ministeri e organizzazioni che lavorano sul territorio. Ormai qualche tempo in Libano ci sono manifestazioni contro il governo, ricorda Federica Gentile di Ladynomics. Proteste che hanno paralizzato il paese e che hanno avuto come risultato a fine ottobre le dimissioni del primo ministro Saad Hariri. Come si legge su Open Democracy, le donne libanesi hanno partecipato attivamente alle proteste. Middle East Eye sottolinea il loro ruolo in prima linea. Hanno formato barriere umane tra chi protesta e la polizia in modo tale da assicurare che la rivoluzione libanese fosse pacifica. Donne di diverso status sociale, livello di istruzione, di diversa origine etnica si sostengono l'una con l'altra, condividendo le responsabilità e affrontando unite la polizia. Al di là delle proteste contro la corruzione del governo, si legge ancora su Ladynomics, la rivoluzione in Libano include anche le rivendicazioni femministe. Secondo la classifica del World Economic Forum, il paese ha un gap di genere che lo colloca al 140esimo posto della classifica mondiale su 149 paesi, con una performance decisamente pessima per l'empowerment politico delle donne, variabile per cui il Libano si colloca al 146esimo posto su 149. Per esempio, si legge ancora: la legge sulla nazionalità non permette alle donne libanesi di trasmettere a figli e figlie la propria nazionalità e le leggi libanesi regolarmente discriminano le donne. Sending big waves in the motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match. Dobbiamo costruire una società che rifiuta l'oppressione nei confronti delle donne. L'Etiopia ha eletto a fine ottobre la sua prima presidente, l'unica donna capo di Stato in tutta l'Africa, Sahle Work Zewde, eletta all'unanimità in una sessione congiunta delle due Camere del Parlamento dopo le dimissioni del suo predecessore, Mulatu Teshome, al potere dal 2013. La diplomatica era rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Se qualcuno pensa che parlo molto delle donne, aspetti di sentire tutto quello che ho da dire, dice la presidente, secondo quanto si legge su El País. Quando non c'è pace nel paese, le madri si sentono frustrate. Quindi dobbiamo lavorare per la pace, per il bene delle nostre madri. Lettera Donna, vi segnaliamo uno speciale sulle donne kazake, le ultime vittime della spregiudicata crociata che la Cina da oltre un anno combatte contro le minoranze musulmane nella provincia di Xinjiang. Violentate, costrette ad abortire, condannate a sopportare in silenzio trattamenti disumani. Secondo quanto riportato dagli attivisti delle Nazioni Unite, più di 1 milione di uiguri, kazaki e rifugiati di numerose altre etnie sono stati reclusi in veri e propri centri di tortura nella provincia dello Xinjiang. Pechino, scrive Lettera Donna, l'ha giustificata come misura necessaria per scongiurare probabili minacce di terrorismo. I fatti hanno dimostrato come non sia stato altro che una manovra studiata per ridurre drasticamente i musulmani nei propri territori, una pulizia etnica camuffata che sta coprendo soprattutto le donne. Nonostante siano riuscite a scongiurare il pericolo e a tornare a casa, per molte delle vittime rimane complicato dimenticare il dolore di quegli abusi e ricominciare da zero. E le loro storie lo dimostrano, si legge ancora su Lettera Donna. Parlano soprattutto di sterilizzazioni attraverso contraccezione intrauterina e aborti forzati che nel quadro della politica del figlio unico sono stati spesso usati come strumento per annientare le loro abilità riproduttive e tenere sotto controllo lo stato delle nascite. Come nel caso della 38enne Guzira Mogdin, che reclusa nel campo di Xinjiang solo per aver disatteso il divieto e aver installato WhatsApp sul suo cellulare, è stata costretta a rinunciare al suo quarto figlio sottoponendosi a un'interruzione di gravidanza. I medici hanno esportato il feto dal mio utero senza usare l'anestesia, racconta al Washington Post. In quella tragedia sono morte due persone, io e il mio bambino. Ora che ha trovato il coraggio di parlare, si aspetta un risarcimento in denaro e pubbliche scuse dal governo cinese. Ma sa che non arriverà nulla di tutto questo e con quella sofferenza dovrà farci i conti fino alla fine dei suoi giorni. In un'intervista al Business Insider, citata da Lettera Donna, Sairagul Saitubai, 41 anni, kazaka, assunta dal governo per insegnare il cinese e fare opera di propaganda nelle strutture di detenzione, ha spiegato come, al di là delle pessime condizioni igieniche, della totale violazione delle normali procedure sanitarie e dell'utilizzo delle prigioniere come cavie di misteriosi esperimenti medici, la cosa più raccapricciante era forse la spettacolarizzazione della violenza di gruppo. Mi ricordo perfettamente di quando un giorno una ragazza di appena 20 anni è stata fatta spogliare dopo aver confessato sotto forzatura i suoi peccati davanti a altre 200 persone, racconta Sarah Gull. Poi, Come se fosse quasi un'abitudine, i soldati hanno iniziato ad abusarne a turno. Tutto questo mentre controllavano la reazione di chi assisteva inerme alla scena. C'era gente che girava la testa, chiudeva gli occhi e chi, in preda alla rabbia o allo shock, ha provato a ribellarsi ed è stato portato via, probabilmente ucciso perché non è più rimasta alcuna traccia. E da parte nostra per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. Sono Barbara Schiavulli e questa è Radio Bullets. Did you hear that rooster crowing? Rabbit running down across the road, underneath the bridge where the water flowed through. So happy just to see a smile underneath the sky blue on this new morning. On this new morning with you. Can't you hear that motor turning? Automobile coming into style, coming down the road for a country mile or two. So happy just to see a smile underneath the sky blue on this new morning. New morning on this new morning with you. The night passed away so quickly. When you're with me, can't you feel it, sun a shining? Round hog running by the country stream. This must be the day that all of my dreams come true. So happy just to be alive underneath the sky blue on this new morning. New morning on this new morning with you. Just to be alive underneath the sky of blue on this new morning. New morning on this new morning with you. Una stagione come quella che sta affrontando il Bologna, Ci sono momenti come questi che sta attraversando, ovvero un momento un po' di difficoltà di rendimento, difficoltà perché ci sono parecchi infortuni e quindi il livello del gioco cala. Quindi ricordando un vecchio film comico, L'Elvi Pazzo del Mondo, veniva fuori la scritta no panico, mi raccomando adesso no panico. Arriva una sconfitta, quella di venerdì a Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove probabilmente si è visto il Bologna, diciamo così, poco lucido della stagione. Un Bologna che aveva sicuramente da recriminare diverse assenze e quindi chi è entrato in campo non ha dato, se non probabilmente nei primi 20 minuti, un apporto di lucidità e di continuità di rendimento. Era sicuramente una trasferta delicata, però alla portata degli uomini di Mihajlovic. Non dico caso Mihajlovic, di Mihajlovic, perché adesso aspettiamoci in questa settimana che qualcuno tiri fuori la motivazione che l'assenza nel campo dell'allenatore porta Tizio, Caio, Sempronio a non essere molto concentrati, a non essere, come si dice in gergo, sul pezzo, che quindi è il momento di una riflessione su come continuare. A mio avviso sono sciocchezze, perché, come dicevamo, a questo momento le diverse assenze hanno portato a un po' meno probabilmente di capacità di allenarsi con grande il ritmo, con grande ardore durante la settimana, e quindi come insegnano tutti gli allenatori è un allenamento non di grande spessore porta poi tendenzialmente a una partita un po' scialba come quella vista venerdì. Ora arriva la pausa, una pausa che auguriamoci porti a recuperare i vari infortunati, da Tomiyasu a Dykes, a rivedere Sansone e che non si è visto venerdì, ma appunto di cercare di recuperare il più possibile, anche perché al ritorno in campo dopo la pausa per la nazionale Bologna avrà da ridisegnare un po' la difesa, visto che Danilo e Bani saranno squalificati per somma di ammonizioni. Situazione sicuramente delicata, ma non da allarme rosso. La classifica non è ancora diciamo così oscena, però l'importante è appunto mantenere tranquillità, capire che il passaggio a vuoto probabilmente non sarà neanche l'ultimo della stagione. Sicuramente l'aspetto del livello tecnico depauperato in questa ultima partita deve far riflettere, ma non mettiamoci in grosso allarme. Sicuramente recuperare i giocatori e tra cui anche Soriano, che ha avuto anche lui una problematica, così come il Ropero, quindi cercare di recuperarli il prima possibile per aumentare il livello degli allenamenti, per avere, diciamo così, più fisicità durante la partita. Da segnalare che Orsolini è stato convocato con la nazionale maggiore, vediamo se Mancini lo farà esordire. Certo che questa chiamata arriva non nel momento più lucido per il giocatore ascolano, ma auguriamoci che sia sicuramente da viatico per portare il giocatore ai livelli di qualche mese fa. Andando al basket, ieri c'è stato il debutto della Virtus nella Segafredo Arena in fiera, un debutto bagnato con una vittoria. La Virtus vince 84-79 contro Treviso, lo fa come ultimamente le capita molto spesso, soffrendo parecchio, ma portando a casa un risultato molto importante. Treviso, come quasi tutte le squadre che si sono presentate quest'anno con la Virtus, gioca un po' a mente libera e si vede soprattutto dalle buone percentuali che riescono ad ottenere nel tiro dalla lunga distanza, nel tiro da tre. Mercoledì, nella vittoria contro i tedeschi dell'Ulm, la Virtus aveva subito un fuoco di fila importante. Virtus che per tutti i primi due quarti non riesce a scrollarsi di dosso i trevigiani, che diciamo, grazie anche a un buon apporto dalla distanza, hanno la capacità, anche con una tripla all'ora scadere del secondo quarto di Logan, di finire il secondo quarto, vanno davanti di 6 punti. Poi nella ripresa si scatina Gaines, che fa 18 punti nel terzo quarto, alla fine ne farà 20, 13 un buon Ricci che fa anche 8 rimbalzi e ha sicuramente quella capacità di fare canestri e nei momenti importanti. Teodosic Gamble con 12, Markovic con 10, anche lui con 8 rimbalzi. Virtus che ha sofferto sotto le plance, 48 rimbalzi per gli ospiti, 45 per la Virtus, anche perché era molto attenta nel tiro dalla distanza dei giocatori della marca, quindi ha subito un pochino di più sui rimbalzi, perché andava a chiudere, cercava sempre di raddoppiare sui giocatori. Treviso è stata brava a muovere bene la palla e alla fine non a caso Tessitori con 10 e Futu con 13 sono state due spine nel fianco, come il vecchio Logan che ha 16 punti e canestri importanti nei momenti dove Treviso è stato davanti. Una Virtus che mantiene la testa della classifica, che probabilmente vede in questo momento un po' il serbatoio un po' vuoto, sia fisicamente che mentalmente, però questo gruppo non ci sta mai a perdere. Dopo la sfuriata di mercoledì di coach Georgievich, dove ha richiamato tutti all'ordine dicendo che non si aveva ancora vinto niente, non si poteva festeggiare di stare lì con la testa comunque umiltà, mi sembra che ciò sia avvenuto, però è sicuro che in questo momento un po' la squadra sia in riserva. Mercoledì va in Israele per la Coppa e poi domenica in quel di Trieste. La Fortitudo perde a Cremona 80-73, lo fa con, a mio avviso, la situazione che è un pochino più chiara in questo momento. Gli uomini di coach Martino fisicamente subiscono, perché per un motivo o per l'altro non hanno, soprattutto dai propri lunghi, la capacità di tenere botta, soprattutto a rimbalzo. Alla fine il Sims ne fa 18, ma fa 3 falli abbastanza presto, e sia Daniels, che mi sembra in questo momento in grande difficoltà, che l'Union, tra parentesi, finisce con un infortunio, poi si parla di problema alla caviglia che verrà poi valutato nei prossimi giorni. Dicevamo che appunto la fisicità, soprattutto dei lunghi, non ha portato un po' a subire sotto le plance. Fortitudo che è sempre sotto, nel finale sotto di 5 punti viene fischiato un fallo in attacco a Radore, che fa un po' diciamo così storgere il naso alla Fortitudo. Radore alla fine ne fa 19, dicevamo appunto Sims 18, Fantinelli 12, ma la sensazione è che, se non per qualche episodio, la partita è sempre stata nelle mani dei padroni di casa, che avevano la necessità di vincere questa partita. Ora domenica arriva a Milano sicuramente con una partita proibitiva, però è anche vero che sono quelle gare che ti danno la possibilità di trovare grande motivazione, e sicuramente il pubblico sarà dei più caldi, già stabilito il sold out ieri, e quindi vediamo se saprà essere un po' di stimolo a una Fortitudo che in questo momento, ribadisco, a mio avviso nel playmaker ha qualche difficoltà, Fantinelli si era fatto un pochino più canestro, ma non riesce a dare il ritmo, e Robertson quando ha giocatori tendenzialmente spesso molto più alti lui è più tonici fisicamente, fa un po' fatica. Anche qua va lo stesso discorso per il Bologna, non c'è assolutamente da accendere la spia del panico, perché fortunato 4 vinte, quanto perse, pienamente nel suo rollino di marcia, e quindi l'importante a mio avviso in questo momento è cercare di recuperare i lunghi che hanno avuto un passaggio vuoto importante. Per questa settimana è tutto, buona giornata. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. E 34 minuti di questo 11 novembre, giornata piovosa, giornata molto triste, perché improvvisamente ci ricorda che l'Italia rimane invischiata nelle guerre, e quando in Iraq, in Siria o altrove muoiono persone lontane ci sembra una storia da raccontare, poco più. Quando poi invece muoiono gli italiani sentiamo che brucia la carne viva. Questo è un po' l'effetto mediatico di come vengono raccontate le notizie, e oggi infatti molti giornali hanno questo titolo in prima pagina: La Repubblica torna all'ISIS, colpiti 5 italiani. Andiamo al Messaggero di Roma: bomba ISIS, soldati italiani feriti. La Stampa di Torino: Iraq, attacco jihadista, i soldati italiani, 3 feriti sono gravi. Il Mattino di Napoli: Iraq, l'ISIS attacca gli italiani. Il Gazzettino del Nord-Est: Iraq bomba sui soldati italiani. Ancora possiamo andare al secolo XIX, in Liguria: Iraq, attacco contro i militari italiani, 5 feriti, 3 sono della Spezia. Qui c'è anche il calcolo cittadino, mentre il Corriere della Sera: attacco in Iraq alle forze speciali, feriti 5 italiani. Dice ancora il Corriere: un ordigno rudimentale esplode sotto un blindato, gravi 3 militari, la strage in Nasseria 16 anni fa. C'è questa ricorrenza tragica, in qualche modo, che celebra l'attacco di sangue. Attentato contro i soldati italiani in Iraq: ieri mattina un ordigno rudimentale scoppia vicino a Kirkuk e investe in pieno il convoglio di un team misto di forze speciali, 5 militari feriti, 3 in modo grave. Non sarebbero in pericolo di vita, a uno di loro è stata amputata una gamba. 2 sono parà col moschin dell'esercito e 3 sono incursori con subin della Marina Militare, 16 anni fa, il 12 dicembre appunto, la strage in Nasseria, ricorda il Corriere della Sera. Ma naturalmente nella guerra tutto si fa strano e la verità è l'ultima ad essere accertata. Infatti Giampaolo Cadalano, nell'analisi dalla Repubblica, dice: quelle forze speciali e le operazioni anti-ISIS avvolte nel mistero. Dopo l'offensiva turca e la morte di al-Baghdadi, gli incursori del Consubine col Moschino sono impegnati a ripulire il Kurdistan dallo Stato Islamico. Ripulire è un termine militare che dà anche un po' i brividi, c'è la verità. Ma tutte le altre informazioni disponibili sulla giornata in Iraq sono confuse, anche di questa giornata tragica, se non persino contraddittorie. Il primo mistero è il dove sia successo l'incidente che ha coinvolto gli italiani. Nemmeno lo Stato Maggiore sono in grado per ora di dare i dettagli. Forse non vogliono. Qualche fonte parla di una zona non precisata a un centinaio di chilometri a sud di Kirkuk, o altre di Sulaymaniyah in pieno Kurdistan iracheno, oppure di Palkanah a metà strada tra Erbil e Kirkuk, o persino a Malkumur, città a maggioranza kurda che sta però al di fuori del Kurdistan autonomo. Ma c'è qualcosa che non va. 3 diversi ufficiali del Peshmerga, interpellati al telefono, hanno smentito a Repubblica ogni coinvolgimento nelle operazioni di ieri. Sappiamo che erano attive le forze armate di Baghdad, ma non siamo in grado di dare altri dettagli, e nessun soldato kurdo impegnato in operazioni con gli italiani. Quindi qui è tutta una vicenda ancora da appurare, vedremo se nei prossimi giorni, nelle prossime ore, ne sapremo di più. ma naturalmente chiaro, quando muoiono italiani, quando muoiono poi soldati italiani in particolare, c'è una commissione particolare, perché quando muoiono gli altri civili, magari civili locali, diventa una cifra, un numero. Allora eccolo qua che c'è tutto la, in qualche modo, i giornali che si stringono intorno alla caserma. Militari d'élite con grande esperienza, ecco chi sono i connazionali attaccati. Il più giovane ha 30 anni, vivono tra Liguria e Toscana, l'ufficiale, queste sono missioni, le missioni più pericolose. Mentre la, leggo dalla stampa, vado al giornale che subito ci ragguaglia e ci cerca di addomesticare, perché dobbiamo restare in trincea. Un impegno necessario, perché nessuno venga in mente, sembra dirci già Michele Sin, di dire no alla guerra, no. Allora, e allora naturalmente si fa interprete di chi non parla, o che anche se parlasse non ha certo la libertà di farlo, e non solo perché prima non volevano il ritiro, sono quei 5 feriti, i loro colleghi mandati a fare il proprio dovere a Erbil, Kirkuk e Baghdad. Questo è, anche se invece, poi girando pagina in terza, una mamma che forse almeno vincoli militari. Il dolore di mamma Rosa Papagna viene descritto dallo stesso giornale. Mio figlio eroe caduto in vano. Ho perso in Afghanistan Francesco, non valeva la pena. Quindi una voce leggermente e antiticamente diversa. E forze speciali anticalifo, incursioni operazioni segrete, 1000 militari a fianco dei curdi. E allora, se questo è, dobbiamo ringraziare anche il tradimento di Trump, se l'ISIS, il mostro dell'ISIS, rialza la testa. L'Italia partecipa alla coalizione internazionale voluta da Barack Obama, corsi, addestramenti, consulente sul campo, impiegato, truppe d'élite. Mentre arriva l'immancabile esperto di terrorismo, che viene interpellato da Lorenzo Bianchi ed Andrea Plebani, ricercatore dell'Università Cattolica di Milano, l'esperto di terrorismo, lo Stato Islamico può tornare. Invece di andarsene, l'Occidente dovrebbe restare sul terreno per favorire la stabilizzazione. Vero o non vero, si può dire che questa gran stabilizzazione dopo tanti anni di presenza militare non c'è stato un granché, quindi forse non è la medicina migliore. Bruxelles in campo, il territorio iracheno ha problemi enormi, anche l'Europa dovrebbe intervenire, percepita dalla gente come parte terza. Insomma, si chiede un maggior coinvolgimento in quella che è una Santa Barbara che già sta esplodendo, ma potrebbe avere una detonazione ancora più clamorosa e sanguinaria se c'è la guerra totale contro l'Iran. Quindi bisogna pensare, certo che però solo il Corriere della Sera dà un dato non secondario, al di là della guerra al terrore, della vicenda curdo, quant'altro. La regione, secondo Lorenzo Cremonesi, Kirkuk, città contesa, gli appetiti per i pozzi e i colpi di coda dell'ISIS. La polizia ha ripreso a sparare sulle persone, i morti superano quota 300, migliaia feriti in quel dell'Iraq. Questo è il quadro drammatico in cui si inserisce questo attentato ai soldati italiani. Questa è sicuramente la prima notizia oggi di molti fogli di carta stampata, anche della nostra rassegna stampa, che allora rimane sul solco della politica internazionale e va in quello che è la vicenda della Spagna. La Spagna ha votato e devo dire che tutto ciò che è di centro-sinistro, di sinistra, ha pagato dazio. 4 sono i seggi persi dai socialisti, 7 da Podemos, mentre, come dice il giornale di questa mattina, la Spagna è stanca di votare, vincono i socialisti, boom di Vox, questo partito dichiaratamente franchista. Affluenza in calo del 2%, Sanchez senza maggioranza, quindi non c'è nessuna risoluzione di maggioranze possibili, se non un accordo PSOE-Popolari, che naturalmente deluderebbe gran parte dell'elettorato non solo degli altri partiti, ma anche di PSOE-Popolari stessi. Crescono i popolari e l'ultradestra è il terzo partito. Questo è il giornale, il Corriere su questo versante dice che Sanchez perde la scommessa, ora ha bisogno dei popolari. I socialisti spagnoli sono il primo partito ma non sfondano, sono al 28%. Il Partito Popolare recupera, è l'alleato possibile per il governo e alza il prezzo. Naturalmente non sarà un accordo a basso lignaggio, pagherà assai dazio e pedaggi il Partito Socialista per avere i popolari al governo. Vox terza forza in Parlamento. E l'esploit di Vox, questo è l'ennesimo partito fascista che dichiaratamente tale, che gira per l'Europa, Abascal felice, in 7 mesi l'estrema destra da 0 a 52 deputati. Così un popolo dimenticato, cioè quello franchista, dice lui, ritrova la voce. Questo è il quadro. Mentre se andiamo alla pagina del Fatto Quotidiano, Sanchez per il governo dovrà bussare al PPE, boom di Vox, l'incognita catalana e Squadra Repubblicana, primo partito della regione, rivendica l'indipendentismo. Quindi questo c'è grave anche la frattura tra la Catalogna e il resto del paese. I numeri dunque, riassumendoli: PSOE al 28%, Unione Popolare al 20%, Vox è al 15%, Unidas Podemos insomma al 12% e Ciudadanos, grande sconfitta e precipitato, ha pagato anche questo pesantissimamente, come peraltro Podemos, i socialisti, la vicenda della Catalogna, il 6,8%, e Maspai più paese al 2,4%. Francamente non so descrivere quali siano le sue coordinate politiche. La Stampa e Repubblica come si affidano all'intervista a due scrittori spagnoli per commentare questi risultati. La Stampa lo fa con Edoardo Mendoza, lo scrittore di Barcellona, che dice l'economia di Barcellona ne sta risentendo, ma la tensione alta conviene a tutti, porta voti a Vox. Vox è xenofobo ma non rifiuta la democrazia, ecco perché Mendoza sostiene che Abascal non è un fascista ma un estremista moderno, e dice: la cosa strana è che in Spagna non sia apparso prima un movimento simile a quelli sorti nel resto del mondo, dal Brasile all'Italia. Sono franchisti? Si pensa a volte che Abascal ambisca a essere Francisco Franco, ma in realtà vuole diventare un Salvini. Lo si è visto nel dibattito TV, gli avversari credevano di avere di fronte un fascista classico, e invece... Vox, almeno in apparenza, non rifiuta la democrazia. Il suo discorso è xenofobo, populista e ultraliberale in campo economico. Tutti sanno che non tornerà la Falange. Anzi, credo che la fine relativamente recente del franchismo spieghi il fatto che finora in Spagna non era nato un movimento così. E invece, dicevamo, Repubblica si affida... a Manuel Villas, che dice: la piazza catalana ha svegliato la mummia del nazionalismo. E andiamo a leggere che cosa dice. L'estrema destra, che sembrava ammortizzata in Spagna, ritorna con forza, gli viene chiesto, e lui risponde: l'estrema destra l'ha portata l'indipendentismo catalano, era scomparsa, era una mummia, il nazionalismo suprematista ha finito per svegliare un altro nazionalismo, quello spagnolo. Si è commesso un errore con Vox, considerarlo come un ritorno del franchismo. In Spagna non ci sono 3 milioni di franchisti, è gente scontenta per una serie di questioni, ma non sono franchisti. Il contesto è quello del boom del populismo di destra a livello globale. Gli viene detto: allora ora, passate le elezioni, il problema catalano resta. Il problema non è mai stato trattato con intelligenza, non abbiamo mai visto un leader capace di gestire questa situazione, c'è stata una grande mediocrità nei governi di Madrid, in particolare Mariano Rajoy, l'inutilità manifesta. E ora deve arrivare quel momento, cioè il momento in cui riprendere un dialogo tra Madrid e Barcellona. Prima di tutto bisogna tornare al rispetto della legge, poi si può parlare di riforma della Costituzione, che può anche comportare l'accettazione di un referendum sull'indipendenza, anche se credo che l'indipendenza sia impraticabile. E infine dice, alla domanda: la questione catalana è stata l'ostacolo principale che ha impedito un accordo di governo tra PSOE e Podemos? No, credo che l'ostacolo principale sia il fatto che il PSOE ha paura delle politiche di sinistra di Podemos. Il PSOE è un partito di sinistra per le politiche sociali e di centro nel tema economico. A parte questo, penso che Sanchez tema quell'animale politico che è Pablo Iglesias. È un leader nato, è il più brillante di tutti, un nemico da eliminare. Anche nei miei giornali c'è questo stucchevole dibattito assolutamente insulso e idiota: se sono fascisti o non sono fascisti. Ovvio che non sono fascisti come al tempo di Franco, perché qualcosa è cambiato nel mondo, e quindi sono fascisti degli anni 2000. E sono fascisti nell'animo, nel corpo, nelle soluzioni, nelle proposizioni, questo dalla Spagna, l'Italia, l'Ungheria, ma non sono fascisti che magari girano con la camicia nera e dicono viva la muerte, come dicevano i franchisti, almeno per il momento. Anche perché non gli conviene, tra l'altro, in questo momento. Ma è un dibattito veramente da... catafalchi imbiancati da ipocriti, per non dire, per non ammettere drammaticamente e sinceramente che purtroppo in Europa ci sono milioni di persone fasciste in questo momento. No, siccome sono in tanti, non possono essere fascisti. Questo è l'altro ragionamento che si fa anche in Italia. Detto questo, parliamo di un golpe in America Latina. Golpe contro in Bolivia. Si muove l'esercito, Morales si dimette. È un classico golpe latinoamericano questo. Questo è proprio un tipico Bolivia svolto dopo 3 settimane di proteste. Proteste di piazza, finanziate, agitate. Poi si muove la polizia, si muove l'esercito. Poi anche questo è un altro classico latinoamericano. Voci di fuga poi smentite. Perché morì Allende? Perché si rifiutò, come proposero i militari, di prendere su e volare da qualche altra parte. Lui rimase alla Moneda e venne ucciso. Moneda è il palazzo presidenziale, e venne ucciso come presidente legittimamente eletto. Non abbandonò il campo. Allora la via di fuga per il golpe dolce non c'è stato neanche in Bolivia. Poi il presidente va in TV, lascio. Ieri in molte città le forze di polizia sono rifiutate di reprimere i manifestanti, ma in realtà ci sono anche degli eserciti, dei corpi di polizia ribelli, come un classico nei colpi di Stato. Morale cede, i boliviani rivoteranno. Il presidente implora la fine dei disordini, ma l'opposizione non basta, perché il Fatto Quotidiano, quando l'opposizione è di destra, opposizione, quando invece fosse di sinistra sarebbero dei golpisti, questo è un classico. Comunque, a questo punto non vogliono rivotare, perché le votazioni le vince Morales, come l'ha già vinta anche le prime. Poi potesse essere vinta in un turno, un secondo turno, ma era lui che prendeva più voti di tutti. A leggere i voti, i giornali invece, sembra che sia un presidente illegalmente eletto. Frodi al voto e polizia ribelle. Morales si dimette, dice il giornale. Dopo la denuncia di truffe, 19 giorni di proteste, denuncia dagli stessi golpisti ovviamente, quindi diciamo sub partes. Il presidente lascia e indice nuove elezioni. Questo è quanto. Insomma, un quadro questo che dalla Bolivia fino alla Spagna ci fa ricordare l'esigenza dell'antifascismo. El 18 de julio en el patio de un convento el pueblo madrileño fundó el 5º regimiento. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo. Y vamos al tiroteo. Con los 4 batallones que a Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con el 5º, 5º, 5º, con el 5º regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y íbamos al tiroteo. Il quinto reggimento, la canzone della guerra civile spagnola dei antifranchisti. Alta tensione sempre in questo Medio Oriente, l'Iran anti-USA, nuovo reattore e maxi scoperti di petrolio. Si è scoperto un dei giacimenti di petrolio più grande del mondo, non sappiamo se siano dichiarazioni ovviamente di propaganda oppure se sia davvero un fatto che rafforzerebbe l'Iran e naturalmente rafforzerebbe anche l'aggressività occidentale a questo paese. Ma si parlava di è fascismo o non è fascismo? Vedete voi, nuovo caso in Danimarca, l'Europa dell'antisemitismo profanato un cimitero ebraico, dice il giornale. Ma siccome non si può parlare di nazismo o fascismo, qui è il capitolo dell'antisemitismo, cioè vengono, ci sono i populisti, gli antisemiti, i nostalgici, insomma, alla fine tanti modi per non dire mai la parola fatidica. Distrutte 80 lapidi, incollati adesivi con la stella di Davide e la scritta Giude, giudeo. Il presidente israeliano scrive alla Segre, appunto che anche in Italia è sotto scorta, ricordiamo, inorridito, letto di rivi dall'olio ed una sopravvissuta della Shoah venga a Gerusalemme. Allarme nel continente, in Francia atti di odio cresciuti del 74%, i timori politici di Berlino e di Londra. Vado in Estremo Oriente, intervista Joshua Kwong, che non è Susie Wong, ma è il leader, così lo chiamano, il leader della rivolta di Hong Kong. Lui dice no, non chiamatemi leader, e si schermisce, ma è una finta modestia. Noi ragazzi di Hong Kong vogliamo la libertà. Non ci fermeremo mai, ad Hong Kong nessuno può più permettersi di un'esistenza normale, la città per metropoli aperta ormai è uno stato di polizia, questo ci dà il Corriere della Sera. Nel frattempo invece vado in America perché c'è Stefano Feltri dal Fatto Quotidiano che ci dà una lettura abbastanza antitetica a quella che viene fatta mediamente dalle famose informazioni major, come dire, ovvero sia l'ossessione per gli elettori di centro condanna a perdere. È un po' come in Italia, tutti alla ricerca del grande centro, ma alla fine, no? Molti pensano che per battere Trump serva un moderato. Dopo l'eclissi di Biden, ora l'establishment punta su Pete Buttigieg, si chiama Buttigieg, e arriva pure il miliardario Bloomberg. Ma forse andare al centro si perde continuamente. Perché, ricorda anche Stefano Feltri, a sinistra, e c'è una sinistra anche molto agguerrita nel Partito Democratico Americano, a partire da Bernie Sanders, ma a sinistra ci sono idee, proposte e anche voti. Il bivio è chiaro in America come in Italia: difendere tutto il quo oppure fare proposte radicali. E dicevamo prima del presidente di Israele che scrive a Segre: minacce disgustose, sei un modello. E fin qui siamo anche tutti d'accordo. Meno d'accordo sulla ricetta che da anni ormai sta applicando Israele, ovvero non ti trovi bene nel paese in cui stai vivendo, torna in Israele. Ecco, diciamo che in realtà è un po' come l'applicazione del concetto di ghetto. Portato a uno stato, ma ci rifiutiamo di come dire, sottometterci a questa ricetta, perché il fascismo va combattuto in tutto il mondo. Non ci deve essere l'isola felice dove andare tutti, ma l'isola felice deve essere tutto il mondo, e dove uno può girare, sia che sia ebreo, sia che sia nero, sia che sia qualsiasi cosa. Tanto qui ormai i motivi di persecuzione o di minacce sono i più variegati. E andiamo a Verona, da Pierpaolo Spinazzè, che in arte è conosciuto come Cibo. È un ragazzo, un writer, che gira per le strade di Verona, individua le svastiche e le sostituisce con i suoi graffiti, che normalmente, appunto, come dice il suo nome d'arte, rappresentano cibo. E ovviamente è stato minacciato, perché va a cancellare le svastiche, non si fa. L'artista di strada che odia le svastiche impugna i colori e marcia con la sua vernice fresca nella Verona nera. Tutto è cominciato con un Tito Boia cancellato con un Wurstel rosa fluo. Poi sono comparsi i cupcake, il parmigiano, le pere, le salsicce, gli asparagi, lecca lecca. Nella città veneta, dove i neofascisti padroni della curva sputano cori razzisti contro Ballottelli e dove i saluti romani entrano in consiglio comunale nella Verona Vandea d'Europa, culla dei movimenti antabortisti, stanno scomparendo tutti i simboli cari alle destre più radicali. Celtiche e inni al duce sui muri vengono puntualmente coperti dalla fantasia di Cibo. Con la sua salamella, ribattezzata Salamellas, ha fatto arrabbiare i fascisti al punto che il 2 novembre qualcuno gli ha messo una bomba carta sotto l'auto. Così. Non è che gli hanno detto stronzo, no, gli hanno messo una bomba carta sotto l'auto. Carabinieri e Digos stanno lavorando per trovare i colpevoli e intanto Cibo continua con la sua opera di riconversione. Ho paura, certo, ma non mollo. Uso il loro odio per il mio impegno civico. Era mezzanotte, dormivo sul divano, sono stato svegliato da un lampo di luce, da un botto fortissimo, sono sceso, il fumo usciva sotto la mia Fiat Idea, ma è solo l'ultima rappresaglia contro di me. Hanno danneggiato il cancello dei miei, appiccicato adesivi fascisti intorno a casa loro, spedito lettere minatorie con teschi e auguri di morte, mi hanno disegnato una svastica sulla porta, senza contare gli insulti sui muri, il simbolo dell'impiccato accanto al mio nome. Ora questa esplosione sotto la mia macchina, confido nella giustizia. Cultura e ironia, dice Cibo, fanno paura a queste persone. Io porto colore, creatività, loro provano a riscriverci sopra, ma fanno peggio. Chi vede i miei disegni rovinati vede un'opera imbrattata, è potentissimo come messaggio. Vedere un lavoro rovinato fa pensare, e i fascisti impazziscono di rabbia per questo. Naturalmente, ancora una volta ricordiamo che, ahimè, è doloroso, ma non stupisce che il fascismo, la cultura fascista aumenti quando i cattivi maestri della guerra insegnano le cose peggiori. Faccio un passo indietro, ma credo utile, e torno in Yemen con questa inchiesta che arriva dal Fatto Quotidiano, chiamato L'imbarazzo della Francia. Yemen, torture nella prigione nascosta nel sito Total, che è la famosa multinazionale del petrolio. Violazione dei diritti dell'uomo. L'Osservatorio sugli armamenti ed altre ONG hanno raccolto testimonianze di dissidenti bastonati e rinchiusi nell'area segreta degli Emirati e Balof, quindi nel sito Total. Questo è questo insegnamento sui diritti umani, chiaro che non può non riverberarsi anche nei rapporti ai limiti tra un vicinato di casa. Affari di Stato, veniamo invece nella macroeconomia, nel macro vendita di armi. Parigi, un alleato storico degli Emirati, ha venduto armi per 3,5 miliardi in 10 anni. Il governo yemita, dice il gruppo francese Total, sa che il centro è stato trasformato in una caserma. Quindi non stupiamoci se poi dai cattivi maestri la cultura fascista scivola fino magari al bar sotto casa. Ma veniamo invece alla pagina economica e siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che parla ex Silva e corsa contro il tempo. Domani altro incontro governo-azienda. Conte vede parlamentari pugliesi 5 Stelle. La Bellanova, che è la ministra dell'area Renzi, Mittal deve trattare con i sindacati verso il sì allo scudo penale. Questo è il quadro che arriva dalla pagina del giornale della Gazzetta del Mezzogiorno, mentre il giornale parla di una presunta faida interna 5 Stelle su Ilva. La CGIL tifa per nazionalizzare. Di Maio e analisti spingono per il no allo scudo, ma i grillini hanno dubbi. Conte vede domani la Mittal. E Conte, tra l'altro, ci fa sapere questa giornata soltanto se la Mittal venisse a dirci che rispetterà gli impegni precisi del contratto, cioè produzione dei termini previsti e piena occupazione e acquisto dell'ex Ilva nel 2021, potremmo valutare una forma di scudo, e quindi ci sarebbe il cedimento del governo sullo scudo. Ilva, infatti, dice anche la crisi di tanto, secondo il Corriere, mossa sullo scudo penale. Conte tratta con i 5 Stelle, domani vedrà Mittal i parlamentari inglesi, pugliesi, Salvini, disposti tutto pur di salvarlo, quindi disposti anche a dare non solo all'Ilva ma a tutte le imprese italiane lo scudo penale per l'inquinamento ambientale. Infatti anche i quotidiani che ho sotto mano io, La Stampa per esempio, Ilva, Conte ora pensa a uno scudo penale soft, ma un emendamento di Renzi fa tremare 5 Stelle. Il Premier domani rivedrà Mittal o offre 2000 esuberi. Italia Viva propone un'immunità totale. Ovviamente si scatena l'ira di PD e grillini. Conte in missione dai ribelli Movimento 5 Stelle. Marcelor Mittal frena sull'intesa. Domani il premier spingerà i grillini pugliesi a rivedere la posizione sull'immunità dai renziani, un emendamento sullo scudo che rischia di spaccare la maggioranza. Certo è che quello che sta cercando di fare Conte è quello di stanare ArcelorMittal, se è vero quello che si sottende rispetto a questo arretrare della multinazionale, che non sarebbe causato dalla dallo scudo penale, che sarebbe solo la scusa, ma si è reso conto che non riesce a rispettare il piano industriale, e allora proponendogli uno scudo soft gli togli l'alibi dello scudo, e quindi dovrebbe uscire, diciamo, la vera ragione. Questo è il tentativo che sta portando avanti Conte. Intanto Cristina Nadotti, sulle pagine della Repubblica, ci racconta tutte le violazioni ambientali di ArcelorMittal, cioè imputate alla ArcelorMittal, dalla Francia al Sudafrica. Quindi ci sono dati che gettano ombre sulla capacità della multinazionale di rispettare le leggi contro l'inquinamento. Un dossier elaborato dalla Federazione dei Verdi Italiani in collaborazione con movimenti e gruppi ambientalisti internazionali mostra infatti un lungo elenco di processi e violazioni in campo ambientale che vedono protagonista l'azienda. Secondo Angelo Bonelli, coordinatore nazionale della Federazione dei Verdi, quello che è accaduto e sta accadendo negli impianti ArcelorMittal di paesi europei ed extraeuropei dimostra che il governo italiano una seria riflessione prima di aggiudicare Ilva al colosso dell'industria l'avrebbe dovuta fare. Il paese che ha contribuito maggiormente a elaborare lo studio dei Verdi è il Canada, dove la multinazionale è sotto processo per 39 capi di imputazione. Un mese fa la Corte Suprema canadese ha respinto il ricorso di ArcelorMittal, che è accusata di aver inquinato le acque rilasciando sostanze nocive nella miniera di Fermont nel Quebec tra il 2011 e il 2013. La multinazionale ha cercato di contestare 29 delle 39 accuse, ma i giudici hanno respinto la domanda, sostenendo anche che i dirigenti della miniera hanno rilasciato dichiarazioni false. E chiudo con la proposta di Boccia, Francesco Boccia, parlamentare pugliese del PD, che dice un piano Taranto e canone scontato al gruppo se investirà sull'ambiente. L'Ilva e l'acciaio sono un asset centrale del paese, ma ci sono le regole che vanno rispettate. È bene che ArcelorMittal lo capisca, in Italia gli impegni contrattuali si rispettano. E poi ci sono cose poco chiare. Questi signori lo scorso anno hanno fatto un'offerta e preso degli impegni, la congiuntura era prevedibile, così come i dazi. Se c'erano esuberi me li sarei aspettati in altre parti d'Europa o in India, non a Taranto nel nuovo investimento. Io rivendico di essere sempre stato contrario all'arrivo di ArcelorMittal, che ha già dozzine di stabilimenti in tutta Europa. Sarebbe stata la prima fabbrica invece per i concorrenti di Jindal, che guidavano una cordata con tanta Italia dentro. E ancora gli viene chiesto: che si fa se vanno via? Si portano in tribunale, come ha detto il presidente, si nomineranno dei commissari. A proposito, i tecnici scelti dal precedente governo perdevano meno di Arcelor. È possibile che il più grande gruppo mondiale dell'acciaio faccia peggio dei commissari italiani? È strano. Giuseppe Conte, interpellato da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, in qualche modo torna sull'argomento dello scudo penale, perché sul futuro dell'Ilva dice: basta parlare di scudo penale, se Mittal non rispetta l'accordo sulla azienda operai, per ora non è nemmeno un alibi, l'ho già proposto ed hanno rifiutato. Quindi sembrerebbe una cosa già bruciata, cosa che altri giornali danno invece come iniziativa attuale. Ma in più in generale dice: plastiche auto aziendali, tasse più lievi, poi raduno giallo-rosa. Perché il Premier dice il fatto che dopo la manovra, con un taglio alle micro tasse, inviterà i leader di quattro partiti di maggioranza a un weekend di lavoro. Dice: ho in mente due giorni di incontro con i leader per parlare fuori dai denti e mettere giù un programma che valga per i prossimi 3 anni e mezzo. Ma non so se appunto un discorso franco possa in qualche modo sciogliere i vari problemi. Per esempio abbiamo Mara Carfagna che dice e fa clamore che se cadesse il governo col tradimento di Renzi, che cambiasse bandiera un'altra volta, potrebbe aprirsi un'ipotesi grande centro. Non so con quali numeri in Parlamento, questo mi sfugge, ma sappiamo che la politica italiana è scevra di ogni sorpresa. E allora la Carfagna in qualche modo, in questo modo, dà l'addio a Forza Italia. Allora l'Alt di Berlusconi, la fronda Italia Viva, tensione sugli arrivi, il caso Carfagna e le sirene renziane, i leader di Forza Italia, noi mai appiattiti sui sovranisti. Oddio, essere al 7% in una forza che viene dominata dalla Lega e dei Fratelli d'Italia, qualche appiattimento esiste, caro Berlusconi? E appiattiti sui sovranisti? Noi siamo i veri liberali, perché c'è anche il vero liberale. Berlusconi dal giornale, questa immagine di Forza Italia che da qualcuno stravolge la realtà. E abbiamo un campione che sembra di ricordare quello già successo con Toti quando uscì da Forza Italia. L'avvertimento alla Carfagna ora deve decidere. Il richiamo anche da Tajani, cambiare casacca non porta bene, è un fatto storico. Ma sembra che ormai non porti bene neanche tenere la casacca di Forza Italia. Nel frattempo abbiamo il no alla Corsa in Emilia, scatena la protesta del 5 Stelle, è un colpo di spugna e gli eletti nelle altre regioni temono che diventi un precedente, cioè una sorta di desistenza. La Fonda, la consigliera Piccinini e da comodi salotti romani cancellano l'impegno sul territorio. È chiaro che di quelli che già pregustavano un posto in regione di fronte a questa possibilità di astensione dal voto rimarrebbero a piedi, quindi sono estremamente arrabbiati. Mercoledì il confronto, Di Maio vedrà gli esponenti locali, timori sui ritardi nella campagna. Poi c'è Pizzarotti, che naturalmente ha il dente avvelenato in quanto ex di Grillino, cacciato da Grillo per questioni molto più leggere di quelle che succedono adesso, francamente. Movimenti in agonia profonda, la desistenza è la scelta più seria. Pizzarotti, qui c'è l'argine alla Lega, io sostengo Bonaccini. Questo. Invece poi c'è questa cosa che gira in rete, io fortunatamente non avendo Facebook non l'ho ancora sentita. Io sono Giorgia, gli autori del tormentone, Meloni al tono da vocalist. Tutti avremmo voluto purché diventasse una sigla per Giorgia Meloni. Mem and Jay commentano il successo di Io sono Giorgio, che in due settimane è diventato un tormentone da oltre 3 milioni di visualizzazioni sul web. I DJ milanesi, 27-24 anni, preferiscono restarne anonimi. Da 3 anni producono musica trash, da ridere. Quel video al comizio era già tristemente virale per ciò che diceva. Noi abbiamo voluto girarlo in chiave ironica, in un discorso a favore delle comunità LGBT. Adesso la Meloni l'ha rigirata a suo favore, fa parte del gioco, ma il pubblico ha capito che volevamo prenderla in giro. E devo dire che ci sarebbe una cosa che dovrebbe far riflettere il centro-sinistra, ovvero la corsa che stanno facendo la Lega ora per dimostrarsi antifascista. Quindi vuol dire che forse dimostrarsi fascisti oggi ha ancora qualche pericolosità o qualche disturbo lo crea, e un buon centrosinistra dovrebbe usare questo come cuneo per le proprie politiche. È vero, tanto è vero questo che ieri il sindaco di Ferrara ha proposto la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Però è anche vero che il sindaco di Predappio nega i soldi per... Quindi certo, c'è il doppio binario. Esatto, aspetta, arrivo, sto arrivando. Abbiamo la Borgonzoni in campagna elettorale qui in Emilia-Romagna e dice: siamo leghisti ma sempre antifascisti. È questo il grido del popolo di Salvini in Emilia. L'ex ministro in campagna per la candidata Borgonzoni rassicura: qui non ci sono nazisti o sovranisti. Però poi... dice anche, perché è lo stesso Salvini che dice cose contro cose, diciamo. Il leader leghista in tour in visita delle regionali. L'esecutivo si fa male da solo. Io moderato? No, no. I miei complimenti a Vox per il risultato in Spagna. Quindi da un lato questi complimenti, dall'altro qui non ci sono fascisti. E insomma, e la Borgonzoni che dice: mai stata fascista io, fascisti sono loro che non accettano il cambiamento e non lasciano parlare Matteo. Insomma, questo è quanto, per cui insomma, evidentemente essere etichettati da fascisti non fa ancora comodo per il momento, in particolare in Emilia Romagna dove si vota e bisogna rubare dei voti alla sinistra, quindi lì si diventa persino antifascisti. Insomma, cerchiamo di partire da lì almeno, non lo so, visto che loro stessi cercano di correre ai ripari, vediamo di far fruttare questa cosa e di renderla politica nel senso della politica del quotidiano. Ma andiamo all'evento a Bologna a proposito di campagna elettorale. Emiliano Romagnola, il PD ci riprova, riconnettersi con quei mondi culturali e sociali dai quali si è progressivamente allontanato. È la principale mission di tutta un'altra storia, agli anni 20 del 2000, la kermesse di tre giorni che si svolgerà a Bologna dal 15 al 17 novembre. Dunque riecco in forza il cattolicesimo democratico, oscurato durante la stagione renziana e che sarà presente con Romano Prodi, che sarà in video. Padre Occhetta, tra gli spin doctor dell'attuale pontificato, Alberto Melloni, che fa parte del circuito ACLI, il mondo produttivo con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, gli artigiani, le cooperative, i sindacati, a cominciare dal leader della CGIL Maurizio Landini, e ancora battitori liberi come Enrico Giovannini, Elena Cattaneo, Fabrizio Barca, Chiara Saraceno. Una miscellanea che riprende format collaudati antichi tra PC e Ulivo, anche se saranno escluse le figure preferite nella stagione renziana, tipo gli intellettuali VIP Massimo Recalcati o personaggi dello spettacolo come Paolo Bonolis. Per quanto riguarda la cronaca politica che ci riguarda ben da vicino, vengo a Malta. La rivelazione ce la dà Goffredo Buccini del Corriere della Sera. Malta, il patto per rispedire i migranti. Noi come l'Italia. Ma è una brutta maglia rosa, perché andiamo a leggere. La notizia è tale da turbare, dice anche Goffredo Buccini del Corriere, le coscienze, in particolare quelle di noi italiani, per ovvi motivi di assonanza. Malta avrebbe sottoscritto un accordo, diciamo segreto ma va sui giornali, con la cosiddetta Guardia Costiera Libica, cosiddetta perché sono le bande di trafficanti e di delinquenti, per riportare dall'altra parte del Mediterraneo le barche di migranti in procinto di entrare nelle proprie acque territoriali. Lo scrive il Time of Malta, giornale locale, parlando di un'intesa di mutua cooperazione, tirando in ballo quale mediatore per la Valletta un funzionario assai controverso. Neville Gaffa, già coinvolto in un'indagine sui visti concessi regolarmente a cittadini libici e indicata dal giornale come una sorta di factotum con ombra del gabinetto del premier Muscat, quello che poi ha portato anche alla morte, l'assassinio della giornalista perché indagava sulla corruzione. Questa è una notizia che naturalmente possiamo tranquillamente ascrivere a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Ne è caduto uno, ne sono sorti 100.000 di muri in giro per il mondo. E ora torniamo a questo mondo delle diseguaglianze e lo facciamo col giornalista Alessandro Ricci dalla nostra redazione Interpellato. Lo studio del DW, Deutsches Institut für Wirtschaft, parla del fatto che ci saranno delle differenze finanziarie nelle casse dello Stato tra gli stati dell'est e gli stati dell'ovest. E questo da cosa dipenderà? Secondo Christina van Toyverden, che è l'autrice dello studio dell'Istituto di Berlino, in pratica questo dipende molto da quello che è successo negli ultimi 30 anni, ovvero dopo la Wende, quindi la caduta del muro, la riunificazione tedesca e tutto ciò che è avvenuto. In pratica questo dipende in particolare dalla grande migrazione che c'è stata negli anni 90 dall'est all'ovest, ovvero giovani ben formati, ben istruiti, che si sono spostati nelle regioni più ricche dell'Ovest, giustamente, alla ricerca di lavoro, per costruirsi una famiglia, e questo fenomeno ha portato a degli scompensi finanziari, ovvero la zona dell'Est ancora non riesce a raggiungere la locomotiva tedesca dell'Ovest. Un esempio è il fatto che il PIL dei nuovi Länder, ovvero degli stati che appartenevano all'ex Repubblica Democratica Tedesca, hanno PIL che è ancora il 70% rispetto a quello della zona ovest. Ovviamente non è solo il problema demografico. Il problema demografico è una faccia della medaglia. L'autrice dello studio parla anche del problema che comunque all'est della Germania ci sono relativamente poche città grandi, se ovviamente si esclude Berlino. A Berlino spesso non viene considerata una città dell'est, ormai è stata, diciamo, assorbita dall'ovest della Germania. Infatti è la capitale delle start-up tedesche, insomma. Questo a cosa porta? Per Die Linke, in particolare per Matthias Schön, che è un parlamentare del Bundestag, anche lui originario dell'Est, parla della riluttanza nei confronti della politica, del sistema, perché a suo parere sono stati fatti molti errori durante durante questi ultimi 30 anni, errori che hanno portato a una certa rabbia contro il sistema, ovvero spesso i cittadini dell'Est si sentono cittadini di serie B. Questo è stato a lungo discusso in Germania, in particolare nel periodo del 3 ottobre, che erano 29 anni dalla riunificazione tedesca, mentre dall'altro lato, comunque l'altro partito che è molto forte all'est della Germania, come ben sappiamo, è AfD, Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, che riesce a capitalizzare un po' questa rabbia. Parlando con Tino Chrupalla, anche lui rappresentante al Bundestag, originario di Görlitz, altra città all'est della Germania, Chrupalla parla del fatto che molto probabilmente le difficoltà dell'est continueranno ancora per i 10 anni, e questo è dovuto alla scarsa attrattività per gli investimenti dell'est. E questo appunto è il fallimento di un'operazione di riunificazione della Germania e del mondo, descritto dal giornalista Alessandro Ricci, interpellato dalla nostra redazione sulle diseguaglianze del mondo che stanno aumentando via più, con le conseguenze che abbiamo fino adesso descritto. Ma storia di copertina del Fatto Quotidiano: veleni sotto l'asfalto, le strade a rischio. Quindi gli affari e poi la salute, come dice la dicitura di Pietro Meccarozzi. L'effetto sono arterie, cioè veleni sotto l'asfalto, l'effetto sono arterie squarciate da voragini e buche. Nicola Morra, della Commissione Antimafia, è un fenomeno che suscita incredulità, avvelenati interi pezzi di territorio, e chiede appunto più controlli. Parliamo dunque di opere pubbliche. Il nuovo fenomeno: le aziende impastano i rifiuti tossici nelle fondamenta di autostrade e vie, ma anche nella costruzione di scuole, ponti e porti, che nel gergo mafioso si dice tragi muniz e nisce oro, ovvero entrano rifiuti ed esce oro. Questo è un go business, quindi whitelist, le scabotage per partecipare ai bandi, anche se sei col curriculum più che mafioso. Dunque, un risparmio: questo concrete green veniva venduto a 17 euro al metro cubo, quando in media ne costa 242. Quindi vedete come nei bandi vengono falsificati i dati, perché con la truffa dell'escamotage di nascondere i rifiuti anche tossici sotto l'asfalto si possono abbassare moltissimo le proposte di bando. Invece, a proposito di autostrade, notizia curiosa arriva dal Corriere con Marco Gasperetti: la caccia con reti e bende ai caprioli in autostrada, chiuse per ora la Firenze Mare, gli esemplari poi liberati in aree protette. Insomma, erano scappati e stavano sull'asfalto. Ma infine la TV: Raffaella Carrà, interpellata, dice: oggi in TV si piange troppo, ci vuole un po' di leggerezza. Quella di Caramba, che sorpresa. L'artista emiliana, protagonista dei palinsesti degli anni 60, giudica le trasmissioni di oggi: il varietà è finito, ora si fa tutto on demand, quindi in TV si piange troppo. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'hanno svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Thank you. torniamo in studio, tornando al discorso fascismo, perché è successa una cosa gravissima. Lo scrive Cati La Torre, avvocata e attivista per i diritti civili, che ha anche aperto un progetto insieme ad altri avvocati, Odiare ti costa. Vi consigliamo di consultarlo in rete, c'è una pagina dove viene spiegato tutto quanto. Sulle case e i negozi degli ebrei, i nazisti affiggevano cartelli che potessero agevolarne il riconoscimento. Oggi il censimento della razza che ruba agli ariani si fa con telecamere e Facebook. Come a Bologna, dove Galeazzo Bignami, parlamentare, Marco Lisei, consigliere comunale, entrambi di Fratelli d'Italia, hanno fatto un giro per le case popolari di Bologna, videocamera accesa, comunicando in diretta Facebook al popolo, ovviamente tra virgolette, quali siano le case abitate da stranieri e dove trovarle. Riprendendo i loro citofoni e leggendo uno ad uno i nomi degli abitanti di quelle case. Persone che, ricordiamolo, abitano in quelle case legittimamente, non le hanno rubate a nessuno, sono state assegnate loro per diritto. Quale sarebbe la loro colpa? Perché sottoporli a questa gogna mediatica e a questa violenza? Ovviamente la loro colpa è essere stranieri, essere di un'altra razza, essere carne da macello elettorale, vivere in una regione in cui si è in piena campagna elettorale e la ricerca disperata del voto portano a questo. E Repubblica, la sezione locale di Repubblica, dedica la prima pagina e poi pagina 5 con un articolo di Eleonora Cappelli, residenti contro la gogna di Fratelli d'Italia, esposto al garante della privacy. Tra l'altro Cati La Torre dice: i residenti di Via Albani che non sono stati colpiti dal censimento mi hanno chiesto il permesso di stampare il mio messaggio e metterlo nella bacheca del condominio, spiega La Torre, perché vorrebbero che le persone coinvolte avessero la forza di replicare direttamente, perché c'è un tema più generale di riservatezza che li coinvolge. I palazzi sono stati filmati, indicati direttamente, messi all'indice con tanto di numero civico. Quindi ora comunque Lisei e Bignami, entrambi avvocati peraltro, rischiano sanzioni, e avevano fatto anche gli sbruffoni nel video, avevano detto: ci diranno che stiamo violando la privacy, ma non ce ne frega assolutamente niente, perché se stai in un alloggio popolare, c'è il tuo nome sul campanello, bisogna che ti metta nell'ottica che poi qualcuno può andare a vedere. E la domanda: ma sono fascisti o sono antifascisti di Emilia Romagna? È la domanda di qui sopra. Ma detto questo, dal Carlino Bologna vado a questa notizia. Vaccini, impossibile prenotare, promesse tradite da agosto, le agende per gli adulti sono bloccate, l'AUS, ripartiamo a giorni. E quindi prossimamente si potrà prenotare l'antidifterite, il tetano per tosse, l'antipneumococco Cica e l'antipatite A e B. Nel frattempo invece, per quanto riguarda l'influenza che sta colpendo a tappeto la nostra cittadinanza, contro l'influenza 1 milione di dosi agli ambulatori, che più o meno guarisce in una settimana, dice, ma se una persona appunto è una categoria famosa a rischio, rischia di più, va da sé. Con questo noi siamo verso il fine. Aggiorno notizia del golpe in Bolivia, perché le cose stanno abbastanza chiarificandosi. La polizia boliviana ha arrestato l'ex presidente e la vicepresidente del Tribunale Supremo Elettorale per presunte frodi e brogli legati alle elezioni presidenziali del 20 ottobre. Ricordo che i famosi presunti brogli, la Confederazione Latinoamericana ha dichiarato che erano, è probabile che fossero onesti, perché è statisticamente improbabile, quindi questa è la prova su cui si agisce il golpe. Ma andiamo oltre. Comunque, all'origine delle contestazioni di piazza che hanno costretto il presidente Morales a rinunciare al suo incarico, contro i due è stata aperta un'inchiesta per falsificazione di documenti, manipolazione di dati informatici, alterazione e occultamento di risultati ed altri reati. Qui si mettono le mani avanti per le prossime elezioni, evidentemente chi le controllerà. Però poco prima Morales ha rinunciato alla sua contestatissima dall'opposizione rielezione. Questo è quanto. Ma chiudo invece parlando sempre in cronaca locale di lavoro. Un protocollo tra città metropolitana e Capo D, una comunità che raggruppa grandi imprese bolognesi, per favorire le pari opportunità nel lavoro, quindi parliamo di donne e lavoro. È l'alleanza siglata a Bologna che comporta l'impegno di società pubbliche e private come Lamborghini, TPR, Emilbanca, ERA ed altre ancora. La nostra Alessia Mondelli ha intervistato allora l'assessore regionale delle pari opportunità, Emma Petitti. Sentiamo le sue parole. Con questo vi salutiamo, sentirci domani sempre a testa messa ora. Ciao a tutti. Il sostegno alle donne che lavorano, il sostegno alle donne che fanno impresa, il sostegno a quella rete sociale, economica, istituzionale che investe sulle pari opportunità. È un tema di qualità della democrazia, in Emilia-Romagna lo abbiamo capito, investendo molto sul welfare per far sì che le donne non si trovino di fronte alla scelta famiglia o lavoro, ma possano lavorare, aiutandole anche nei primi anni di maternità, ad esempio con gli asili nido. Lo abbiamo capito nei percorsi di formazione, integrando formazione e lavoro, e dobbiamo contrastare in maniera molto netta ancora quelle discriminazioni che esistono. Le donne sono coloro che si laureano prima e con risultati migliori, hanno maggiori difficoltà di accesso nel mercato del lavoro e hanno più difficoltà rispetto ai colleghi maschi a fare carriera. E quindi è chiaro che anche il tema delle retribuzioni, quel gap retributivo che è ancora oltre il 17% tra uomini e donne, va contrastato in ogni modo. Questo esempio, quello di oggi qui in città metropolitana, dimostra che le imprese del nostro territorio hanno colto questa sfida, insieme alle istituzioni locali e regionali combattono per far sì che queste discriminazioni vengano superate. Quindi la Regione Emilia Romagna è accanto alla città metropolitana e alle aziende del nostro territorio. Okay. E oltre alle nuove di Capodì stanno aderendo anche altre aziende oppure? Sì, ci sono diverse aziende. Noi abbiamo tra l'altro realizzato un bando, il primo bando regionale Donne e Lavoro, rivolto alle aziende, alle imprese, alle associazioni che si occupano di questi temi, agli enti locali. Sono tanti progetti che sono stati sostenuti e c'è una sensibilità crescente in tutto il territorio regionale. Quindi questo è un, come dire, un modello messo a sistema, ma altri ne stanno nascendo e quindi noi siamo accanto a chi investe in questa direzione. Concreto, quali misure sono state applicate o saranno applicate e da quando? Per la prima volta c'è lo smart working che noi abbiamo applicato all'ente regione, che si sta mettendo, diciamo, a sistema anche negli enti locali. E poi ci sono misure che riguardano la conciliazione, il cosiddetto welfare aziendale, ormai una misura presa ad esempio da molte imprese. E poi c'è l'altro tema fondamentale, che vuol dire aiutare le donne anche nei periodi appunto di maternità e quindi di stacco magari dal lavoro a non perdere quel lavoro. E quindi c'è una sorta di patto che molto spesso viene fatto con le aziende per far sì che lo occupi tutti i settori. E quindi da questo punto di vista ci sono vari livelli su cui intervenire, appunto welfare, formazione, sostegno alle donne, ma soprattutto c'è anche un tema culturale. Io credo che questi temi passino dal parlarne, dalla sensibilità che va messa in campo a tutti i livelli, e ci stiamo lavorando.